Fantastico, lo dice già la parola stessa, è un progetto fantastico che Bebo e Ilinia hanno appunto sviluppato negli ultimi anni in forma digitale, e a un certo punto è nata la necessità da parte loro di renderla anche in forma cartacea. Quindi diciamo che io sono un po' per le affinità elettive, il destino ha voluto che ci incontrassimo e chiacchieriassimo. In quel momento lì è nato uno sposalizio culturale e ideologico, per cui era impossibile, ecco, che non trovassimo un equilibrio produttivo ed editoriale per arrivare insomma alla vendita della rivista Fantastico in maniera cartacea. Fantastico è un trimestrale e si propone anche di fornire narrazioni un po' diverse dall'imbruttimento che assistiamo sui social. Sappiamo che in Italia si legge poco e quindi insomma è una bella sfida quella che avete raccolto. È sempre una bella sfida. Devo dire che, come giustamente hai detto tu, il punto sta proprio nel parlare della lettura, cioè è importante che le persone leggano. Poi dopo, che cosa si può andare a lavorarci su? Ma l'importante è leggere. Fantastico si pone proprio come rivista indipendente, per l'appunto, quindi gestita internamente, con l'obiettivo di fare cultura, perché il sottotitolo è Nomi, cose, città. Quindi si parla proprio del tessuto culturale nazionale, anche perché ci sono sempre interventi trasversali, sia da un punto di vista geografico che da un punto di vista contenutistico. Quindi fotografia, arte, mostre, fumetto, libri, poesia, e chi più ne ha più ne metta, ci sono moltissime interviste. Insomma, è proprio un punto culturale, ecco perché è questo incontro tra Fantastico e Polignani Editore, perché l'obiettivo è comune, ovvero far leggere e diffondere la cultura. Polignani Editore è una casa editrice un po' particolare, perché insomma la mission con cui è nata, tu sei il fondatore e anche il direttore, riguarda l'innovazione ma anche l'ambiente. Assolutamente sì, forse metterete come primo punto l'ambiente e poi l'innovazione, o meglio, vanno di pari passo, perché il settore nostro, utilizzando la carta, non può non preoccuparsi di come questa carta viene gestita, da quando è ancora albero fino a quando invece deve essere riutilizzata, riciclata o in qualche maniera dismessa. Noi ci inseriamo esattamente in questo meccanismo, cercando di curare tutte le parti, quindi acquistando carta soltanto di un alto profilo, con alte certificazioni, e poi andiamo a costruire il libro in maniera da praticamente rendere zero l'impatto finale e zero anche quindi lo scarto. Pertanto anche Fantastico è stata costruita in quest'ottica. È una relegatura a raso, abbiamo inventato questa relegatura completamente nuova, fatta di raso, il cui colore cambia numero per numero. E poi quindi abbiamo fatto una finitura con il packaging sempre fatto in carta. Insomma, l'ambiente è sicuramente il punto centrale di Polignani. C'è proprio una sorta di, mi viene da dire format, ma forse una deformazione professionale, il QART. Esatto, il QART è il nostro fiore all'occhiello da questo punto di vista, che ho disegnato personalmente un po' di anni fa ormai, il quale inizialmente era soltanto, tra virgolette, un prodotto di cancelleria su cui prendere appunti in maniera molto molto comoda, ma poi si è sviluppato diventando un prodotto editoriale. In una parola posso dire che il QART è l'unico formato di libro interattivo. Cosa vuol dire interattivo? Che in maniera estremamente agile e confortevole la pagina numero, ad esempio, 7 può parlare con la pagina 39, perché ho la possibilità di metterle una vicino all'altra. Facendo così si vanno a risolvere diversi problemi da un punto di vista anche cognitivo. Quindi i DSA, piuttosto che le disfunzioni della lettura, o la lettura soprattutto a breve termine, e il mondo digitale ci solletica molto sulla lettura a breve termine, peggiorandola, viene migliorata. In che senso? Immaginiamo di studiare storia dell'arte. Io posso avere il quadro della Gioconda nel riquadro in alto sempre fisso, e le pagine che descrivono il quadro continuano a scorrere dietro il quadro, e io però appunto mantengo focalizzata l'attenzione sul cuore, che è il quadro stesso. Quindi non devo continuare a sfogliare le pagine avanti e indietro per cercare di ricordare i dettagli dell'immagine che poi mi vengono descritti. Dal punto di vista cognitivo questo è rivoluzionario.